Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Export e legame con il territorio. Le storie di idrodepurazione e HBS di Anna Marino. Nuova puntata speciale di Voci di impresa della serie di appuntamenti in cui, in collaborazione con Intesa San Paolo, Radio 24 racconta le storie di aziende italiane di successo in varie zone d'Italia. Dopo l'evento Sharing Italy, in cui più di 150 imprenditori si sono confrontati su soluzioni di sviluppo concrete, siamo andati alla ricerca di case history dove lo spirito imprenditoriale è riuscito a trasformare piccole botteghe, laboratori e stabilimenti in aziende di respiro internazionale. Storie di donne, uomini e imprese, ma anche di territori che raccontano esperienze di successo. La prima storia arriva da Seregno, territorio in provincia di Monza-Brianza, dove ha sede Idrodepurazione, 40 anni di attività. Qui l'azienda ha mosso i primi passi nel campo della depurazione delle acque reflue, del recupero delle acque piovane, del trattamento e del recupero della sostanza organica negli scarichi di lavorazione dell'industria agroalimentare. Una storia imprenditoriale radicata nel territorio e con una vocazione fin dall'inizio alla tutela dell'ambiente, come racconta Giovanni Benedetti, socio fondatore di Idrodepurazione. Il territorio è importante perché i primi clienti, ovviamente poi essendo in una regione particolarmente dinamica, quale la Lombardia, erano negli anni, diciamo, 80, fine anni 70, qualsiasi seme germogliava senza troppe difficoltà. C'era comunque un mercato molto effervescente. La mia formazione di studi è agricola, quindi sono laureato in scienze agrarie. Poi mio padre, che era igienista, mi ha orientato nel settore ambientale. Quindi ho iniziato a lavorare nel comparto ambientale e nel 1977 ho creato Idrodepurazione, che ha iniziato ad affrontare i temi di trattamento dell'acqua sotto l'aspetto della depurazione delle acque di scarico, e poi è stato implementato con la potabilizzazione, e oggi abbiamo una visione più ampia perché è rivolta alla green economy e quindi all'ambiente in generale, in particolare la produzione di oggi biometano da sostanza organica. Questo è il nostro core business, senza dimenticare ovviamente gli aspetti di potabilizzazione e di depurazione delle acque di scarico con impianti compatti, package, mobili. Dal territorio all'estero il salto è stato strategico grazie alla nascita nel 2015 di Hydro Group, di cui fa parte Idrodepurazione, un consorzio che riunisce aziende specializzate nel settore ambientale con esperienza quasi quarantennale nei comparti di competenza e sviluppa le soluzioni sostenibili, dagli impianti mobili e compatti ai sistemi di purificazione delle acque che vengono poi esportati. Fare rete, questa è stata la strada per l'internazionalizzazione di questa PMI, 15 milioni di fatturato, che ha puntato sull'export per combattere la crisi. Soprattutto tramite acquisizioni, quindi acquisizioni di aziende che già avevano una presenza sul mercato internazionale. Sicuramente il sistema delle acquisizioni è il modo più rapido per crescere. Noi oggi siamo al 70% sull'estero. Se non ci fosse stata l'internazionalizzazione, saremmo diventati ancora più piccoli o saremmo morti. L'export e le innovazioni hanno anche un risvolto umanitario, come spiega ancora Giovanni Benedetti. Il nostro lavoro è di portare l'acqua laddove non c'è, quindi l'acqua di qualità laddove non c'è, e renderla quindi facilmente disponibile con impianti che vanno a risolvere dei problemi in genere di comunità. Quindi questo qui è il problema, perché noi qui siamo in un ambiente in cui, molto fortunato, l'acqua c'è in abbondanza eccetera, però ci sono paesi in cui durante alcuni o l'acqua disponibile è di cattiva qualità di per sé e quindi va comunque potabilizzata, trattata. Il nostro lavoro è quello di fare questi impianti al servizio di comunità più o meno grandi. Sono soprattutto i paesi nei quali operano le missioni di pace. Le missioni di pace hanno sempre più un aspetto sociale che non militare, per cui i filoni più facili di internazionalizzazione che noi abbiamo trovato ed efficienti sono quelli di seguire gli aiuti internazionali allo sviluppo, quindi l'USAID, l'UAID, l'ONU, tutti questi enti, le banche internazionali di sviluppo pongono particolarmente attenzione alle infrastrutture. L'acqua è una di queste infrastrutture e adesso stiamo per esempio studiando dei pacchetti che comprendono, che partono da per esempio un'infermeria in container, un sistema di telecomunicazioni per che possano funzionare i cellulari anche in luoghi remoti e il trattamento dell'acqua che appunto spesso non è di qualità adeguata alla salute. Quando l'acqua diventa preziosa bisogna anche recuperarla, cioè usarla il meno possibile, ma soprattutto il riutilizzo delle acque usate. La seconda storia che raccontiamo oggi è quella di HBS e ha origine nel Mantovano. Negli stabilimenti di Monzambano, in 6.000 metri quadri, si producono valvole oleodinamiche e distributori rotanti oleodinamici ed elettrici, ma in questa impresa è strategico il laboratorio di ricerca e controllo qualità. Fin dall'inizio le innovazioni sono state strategiche, generazione dopo generazione, come racconta Ezio Bompieri, socio consigliere e amministratore delegato dell'azienda di famiglia. L'azienda è nata 50 anni fa per merito di mio padre nel 1967, il quale, come la storia delle tipiche aziende italiane, appunto ha iniziato da giovane con un'esperienza sulla metalmeccanica di base, poi negli anni 80 ha iniziato la propria specializzazione quale terzista nel settore oleodinamico. Nel 95 c'è stata un po' l'evoluzione, siamo entrati a far parte dell'azienda io e mio fratello Rinaldo, sostanzialmente abbiamo dato la svolta, abbiamo deciso di iniziare ad investire nello sviluppo di tecnologia aerodinamica con brand appunto HBS. Successivamente abbiamo progettato appunto lo sviluppo dell'azienda nel 2002 con un progetto denominato SAI, Sistema Aziendale Integrato, dal quale abbiamo iniziato a progettare appunto il futuro dell'azienda, il futuro che appunto prevedeva un'innovazione tecnologica sulla produzione, un'espansione territoriale, un'espansione di gamma di prodotti. I paesi in cui HBS esporta le sue valvole su misura vanno dall'Europa occidentale a quella centrale e orientale, dalla Cina alla Russia. Ma anche nell'internazionalizzazione HBS ha inventato un nuovo modo di concepire i partner esteri come membri di una stessa famiglia. Per contraddistinguere proprio i rapporti che noi vogliamo sullo sviluppo territoriale all'estero, ha proprio coniato un brand, un HBS Family Business Company. Abbiamo voluto proprio fidelizzare i nostri partner all'estero. Oggi siamo presenti in Cina, India e Brasile, l'anno prossimo avremo appunto l'inaugurazione della sede negli Stati Uniti e i nostri collaboratori presenti all'estero, i nostri direttori fanno parte della nostra famiglia, quindi la famiglia è la famiglia HBS, quindi anche appunto l'espansione segue questo filone logico di gestione familiare. Fare rete con istituzioni, soggetti del territorio, risorse umane e filiera ad ogni livello è diventato strategico, un vantaggio competitivo anche in tempo di crisi. I rapporti sia con le risorse interne all'azienda che le risorse esterne all'azienda sono fondamentali per una crescita. Un'azienda che vuole innovare deve innovare sì in beni strumentali, quindi sull'investimento tecnologico, ma anche sulla formazione delle persone e le relazioni con le persone. Per quanto riguarda la parte appunto finanziaria degli istituti di credito, noi abbiamo appunto ottenuto sempre un supporto importante da parte dell'istituto in Intesa San Paolo, il quale ha sempre affiancato la nostra azienda in qualsiasi tipologia di investimento, anche per appunto lo sviluppo all'estero. Per quanto riguarda sempre i rapporti con Intesa San Paolo, nel periodo dopo la crisi noi abbiamo avuto un supporto e tuttora è fondamentale, soprattutto volto ai nostri fornitori, con il programma programma di filiera. L'intervento dell'istituto di credito supporta appunto i nostri fornitori smobilizzando i crediti che vantano nei confronti di HBS, facilitando appunto queste attività di smobilizzo e di procurare risorse finanziarie anche talvolta a costi vantaggiosi. E oltre ai ritorni economici, l'azienda familiare non ha delocalizzato e ha creato nel tempo uno stretto legame con i dipendenti e con la zona di origine. Sentiamo ancora Ezio Bompieri. Da sempre la nostra azienda, dal 1967, la prima struttura di 350 metri quadri era presente sul territorio di Monzambano, la struttura di oggi di 12.000 metri quadri è presente sul territorio di Monzambano. Il primo dipendente del 1967 ancora oggi vuole lavorare in HBS, dove fa parte della squadra di 150 persone. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.